Erano le 3 di un meraviglioso e arieggiato pomeriggio autunnale quando Mr. Casaubon partì per il suo rettorato di Lowick, distante solo 5 miglia da Tipton, e Dorothea, che aveva indossato il cappellino e lo scialle, si affrettò lungo la fila di arbusti e attraversò il parco onde poter vagabondare per il bosco limitrofo senza altra compagnia visibile tranne quella di Monk, il grosso San Bernardo che faceva sempre da guardiano alle ragazze durante le loro passeggiate. Davanti le si era levata la visione di un possibile futuro per sé, a cui agognava con trepida speranza e voleva continuare a vagare senza interruzione in quel futuro immaginario. Camminava svelta nell'aria frizzante, il colore si fece più intenso sulle sue guance, il cappellino di paglia, che la gente dei nostri giorni potrebbe guardare con curiosità indagatrice come una forma di cestino fuori moda, le cadde un po' sulla nuca. Forse la sua descrizione sarebbe manchevole se si omettesse che portava la chioma castana intrecciata e fissata in una piatta crocchia, così da rivelare arditamente il profilo del capo, in un'epoca in cui il sentimento comune esigeva che la magrezza naturale fosse dissimulata da alte barricate di ricci e fiocchi increspati, insuperati da nessuna grande razza tranne gli abitanti delle Figi. Codesto era un tratto dell'ascetismo di Miss Brooke. Ma non c'era nulla dell'espressione di un'asceta nei suoi grandi occhi luminosi, mentre essa guardava dinanzi a sé senza avere la consapevolezza di vedere, ma assorbendo nell'intensità del suo stato d'animo il fulgido solenne pomeriggio, con i suoi lunghi varchi di luce fra le lontane file di tigli, le cui ombre si toccavano a vicenda. Tutti, giovani o vecchi, vale a dire tutti coloro che vivevano in quell'epoca precedente alla riforma, l'avrebbero guardata con interesse se avessero attribuito la luminosità degli occhi e il vivo colorito delle guance alle ordinarie immagini suscitate di fresco dell'amore giovanile. Le illusioni di Chloe per Strefone sono state sufficientemente consacrate in poesia, come dovrebbe essere la commovente bellezza di ogni spontanea fiducia. Miss Pippin, che adora il giovane Pumpkin e sogna interminabili prospettive di un'instancabile vita in comune, fu un piccolo dramma di cui i nostri padri e le nostre madri non si stancavano mai e che era stato rappresentato in tutte le salse. Purché Pumpkin avesse un personale capace di vincere gli svantaggi del frac dal busto corto, ognuno avrebbe considerato non solo naturale ma necessario alla perfetta realizzazione della femminilità il fatto che una dolce fanciulla fosse allo stesso tempo convinta della sua virtù, della sua eccezionale abilità e soprattutto della sua assoluta sincerità. Ma forse nessuno che fosse vissuto allora, e tantomeno nessuno nei dintorni di Tipton, avrebbe avuto una tollerante comprensione per i sogni di una fanciulla, le cui idee sul matrimonio prendevano completamente forma da un entusiasmo esaltato per le finalità della vita, un entusiasmo illuminato per la massima parte dalla propria fiamma e incurante delle raffinatezze del corredo matrimoniale, della forma dell'argenteria e persino degli onori e delle dolci gioie della florida madre di famiglia. Adesso era entrato nel capo di Dorothea che Mr. Casaubon potesse desiderare di fare di lei la propria moglie, e questa idea le suscitava una sorta di reverente gratitudine. Com'era gentile da parte sua, anzi, sarebbe stato quasi come se un messaggero alato fosse all'improvviso spuntato a fianco del suo sentiero e le avesse teso le mani. Da tempo ero oppressa da un senso di indeterminatezza che mentalmente incombeva come una densa foschia estiva su tutto il suo desiderio di rendere grandemente utile la propria vita. Cosa poteva fare? Cosa avrebbe potuto fare? Lei, poco più di una donna appena in boccio, eppure con una coscienza attiva e un grande bisogno mentale che non si lasciavano soddisfare da un'istruzione per signorine paragonabile ai bocconcelli e ai giudizi di un topolino raziocinante. Con una certa dose di stupidità e di presunzione, essa avrebbe potuto pensare che una signorina cristiana dotata di mezzi avrebbe dovuto trovare il proprio ideale di vita nelle opere di carità del paese, nella protezione dei preti più umili, nell'attenta lettura dei personaggi femminili delle sacre scritture, che narravano l'esperienza privata di Sara nell'Antico Testamento e di Dorcas nel Nuovo, e nella cura della propria anima mentre ricamava nel suo salottino, e nello sfondo il probabile matrimonio con un uomo al quale avrebbe potuto dedicare, se meno rigoroso di lei, perché troppo occupato in questioni inesplicabili dal punto di vista religioso, le proprie preghiere e tempestive esortazioni. Da un tale appagamento la povera Dorotea era esclusa. L'intensità della sua inclinazione religiosa, la forza che questa esercitava sulla sua vita, non era che un singolo aspetto di un carattere del tutto ardente, idealistico e intellettualmente coerente. E con un tale carattere che si dibatteva nelle pastoie di un insegnamento gretto, circondato da una vita sociale che non pareva altro che un labirinto di condotte meschine, un dedalo maturo di piccoli sentieri senza via d'uscita. L'esito avrebbe senza dubbio dato agli altri l'impressione a un tempo di un'esagerazione e di un'incoerenza. La cosa che le sembrava la migliore voleva giustificarla con la conoscenza più completa e non vivere nel riconoscimento ipocrita di regole che non venivano mai seguite. Fino ad allora tutta la sua passione giovanile si era riversata in questa brama spirituale. Ciò che l'attirava era un'unione che l'avrebbe liberata dalla sua soggezione di fanciulla alla propria ignoranza e le avrebbe dato la libertà della sottomissione volontaria a una guida che le avrebbe fatto percorrere con sé il sentiero più grandioso. Allora imparerei tutto, si disse, percorrendo ancora a passi veloci il sentiero attraverso il bosco. Sarebbe mio dovere studiare per poterlo aiutare meglio nelle sue grandi opere. Non ci sarebbe posto per nulla di banale nella nostra vita. Le cose quotidiane per noi sarebbero le cose più alte. Sarebbe come sposare Pascal. Apprenderei a scorgere la verità alla stessa luce in cui l'hanno vista i grandi uomini. E poi, una volta diventata anziana, saprei cosa fare. Vedrei come sarebbe stato possibile condurre una vita illustre qui, ora, in Inghilterra. Non mi sento sicura di fare del bene in alcun modo ora. Tutto ha come l'apparenza di andare in missione presso un popolo di cui non conosco la lingua, a meno che non si tratti di costruire delle casette ben fatte, su questo non c'è dubbio. Ah, poter dare una bella casa alla gente di Lowick. Disegnerò un sacco di progetti mentre ne ho il tempo. Dorotea si trattenne d'improvviso, rimproverandosi la presunzione con cui faceva progetti su avvenimenti incerti. Ma lo sforzo interiore di mutare la direzione dei propri pensieri le fu risparmiato dalla comparsa dopo una svolta della strada di un cavaliere che procedeva al piccolo galoppo. Il baio ben strigliato e i due magnifici setter non potevano lasciare adito a dubbi che il cavaliere fosse Sir James Chetham. Questi scorse Dorotea, balzò immediatamente giù dal cavallo e dopo averlo consegnato allo stalliere avanzò verso di lei, tenendo in braccio qualcosa di bianco, alla cui volta i due setter abbaiavano con eccitazione. Che piacere incontrarvi, Miss Brooke, egli disse, levandosi il cappello e mettendo in mostra la chioma bionda, lucida e ondulata. Ciò anticipa il piacere che pregustavo. Miss Brooke fu irritata dall'interruzione. Questo amabile baronetto, davvero un marito adatto per Celia, esagerava nella necessità di rendersi gradito alla sorella maggiore. Persino un futuro cognato può essere un peso se vuole sempre presupporre di intendersi con voi alla perfezione, di avere le vostre stesse idee anche quando lo contraddite. Il pensiero che egli avesse commesso l'errore di farle la corte non riusciva a prendere forma. Tutta la sua attività mentale era presa da convinzioni di altro genere. Ma in questo momento era davvero inopportuno e le sue mani, piene di fossette, erano proprio sgradevoli. L'indignazione la fece avvampare profondamente mentre ricambiava il saluto con una certa alterigia. Sir James interpretò la cresciuta intensità del colore nel modo più gratificante per sé e pensò di non avere mai visto Miss Brooke con un viso più bello. Ho portato un piccolo supplice, disse egli, o meglio, l'ho portato per vedere se sarà accettato prima che rivolga la supplica. Mostrò il bianco oggetto sotto il braccio, era un minuscolo cucciolo di maltese, uno dei balocchi più ingenui della natura. Mi fa pena vedere questi animali che sono allevati solo per essere vezzeggiati, fece Dorotea, la cui opinione stava prendendo forma in quello stesso momento, come sempre il caso delle opinioni, nel calore dell'irritazione. E perché? Chiese Sir James mentre procedevano. Credo che tutti i coccolamenti di cui sono fatti oggetto non li rendano felici. Sono troppo inermi. La loro vita è troppo fragile. Una donnola o un topo che si procurano il cibo da sé sono più interessanti. Mi piace credere che gli animali che ci circondano abbiano un'anima in un certo senso simile alla nostra, se la sbrighino da sola. Oppure possano farci compagnia, come Monk, qui. Queste bestie sono dei parassiti. Sono tanto lieto di sapere che non vi piacciono, fece il buon Sir James. Io non li terrei mai per me. Ma le signore di solito amano questi cani maltesi. Ehi, John, prendi questo cane, per favore. Il cucciolo sgradito, il cui naso e i cui occhi erano ugualmente neri ed espressivi, fu in tal modo tolto di mezzo, dal momento che Miss Brooke aveva deciso che sarebbe stato meglio che non fosse nato. Ma essa credette necessaria una spiegazione. Non dovete giudicare i sentimenti di Gelia dai miei. Credo che a lei piacciano questi piccoli animali coccoloni. Una volta aveva un minuscolo terrier che aveva molto caro. La cosa mi rendeva infelice perché temevo di calpestarlo. Sono piuttosto miope. Avete un'opinione vostra su tutto, Miss Brooke, ed è sempre un'opinione ben fondata. Che risposta si poteva dare a un complimento così stupido? Sapete, io vi invidio per questo, disse Sir James, mentre continuava a camminare al passo piuttosto veloce imposto da Dorotea. Proprio non capisco cosa vogliate dire. La vostra capacità di farvi un'opinione. Io riesco a farvi un'opinione della gente. So quando uno mi va, ma riguardo ad altre questioni, sapete, spesso ho delle difficoltà nel decidere. Si sentono dire cose assai sensate da punti di vista opposti. O che paiono sensate. Forse non distinguiamo sempre fra il buonsenso e la stupidità. Dorotea si rese conto di essere piuttosto maleducata. Esattamente, fece Sir James, ma sembra che voi abbiate la capacità di distinguere. Al contrario, sono spesso incapace di decidere, ma è per ignoranza. La conclusione giusta esiste lo stesso, anche se non riesco a scorgerla. Penso che siano pochi a vederla con maggiore prontezza. Lo sapete, Lovegood ieri mi diceva che avete la migliore idea al mondo per un progetto di casette. Fantastico per una signorina, pensava lui. Avete un vero e proprio talento, per usare la sua espressione. Ha detto che volevate che Mr. Brooke costruisse un nuovo gruppo di casette, ma mi è parso che pensasse che era assai improbabile che vostro zio acconsentisse. Lo sapete, questa è una delle cose che voglio fare sulla mia proprietà, intendo dire. Sarei così lieto di realizzare quel vostro progetto, se voleste farmelo vedere. Naturalmente è un investimento a fondo perduto, ecco perché la gente è contraria. I contadini non potranno mai pagare un affitto per farlo fruttare, ma tutto sommato vale la pena di farlo. La pena di farlo? Eh sì, e come? Fece Dorotea con veemenza, dimenticando le meschine irritazioni di poco prima. Credo che ci meriteremmo di essere schiacciati con un flagello dalle nostre fastose case. Tutti quanti noi che lasciamo che gli affittuari vivano in quei tuguri che ci vediamo attorno. La vita nelle casette potrebbe essere più felice della nostra, se fossero vere case, adatte a degli esseri umani dai quali ci aspettiamo doveri e affetti. Mi volete mostrare il vostro progetto? Sì, certo, presumo sia assai imperfetto, ma ho esaminato tutti i progetti di cottage nel libro di Loudon e ho scelto quelli che mi sembravano i migliori. Che bello sarebbe dare l'esempio proprio qui. Penso che invece di mettere Lazzaro alla porta, dovremmo mettere quelle catapecchie alla porta del parco. Dorotea adesso era di ottimo umore. Sir James, in qualità di cognato che costruiva cottage modello sulle sue proprietà, e poi magari anche ne sarebbero stati costruiti a Lowick e altri ancora a imitazione di essi altrove. Sarebbe stato come se lo spirito di Oberlin fosse passato sulle parrocchie per rendere bella la vita in povertà. Sir James vide tutti i progetti e ne portò via uno per consultarsi con Lovegood. Se ne andò anche con il piacevole senso di aver fatto grandi progressi nella stima di Miss Brooke. Il cucciolo maltese non fu offerto a Celia, omissione a cui in seguito Dorotea pensò con sorpresa, ma di cui diede a se stessa la colpa. Aveva impegnato l'attenzione di Sir James. Tutto sommato era un sollievo pensare che non ci fosse alcun cucciolo da calpestare. Celia era presente al momento in cui vennero presi in esame i progetti e si rese conto dell'illusione di Sir James. Lui crede che Dodo pensi a lui, mentre lei pensa solo ai suoi progetti. Eppure non potrei dire con certezza che lei lo rifiuterebbe se pensasse che le lascerebbe dirigere tutto e realizzare tutte le sue idee. E come si sentirebbe a disagio, Sir James? Non sopporto le idee. Era un lusso personale di Celia indulgere a quell'antipatia. Non osava presentarsi alla sorella con una dichiarazione aperta di qualche genere che l'avrebbe lasciata esposta all'accusa di essere in un modo o nell'altro nemica di ogni gesto di bontà. Ma nei momenti favorevoli aveva una maniera indiretta di fare avvertire alla sorella Dorotea il suo giudizio negativo e di raffreddare il suo entusiasmo ricordandole che la gente la guardava con occhi spalancati, ma senza ascoltarla. Celia non era impulsiva. Ciò che aveva da dire poteva aspettare e lo esprimeva sempre con la stessa tranquilla, discontinua monotonia. Quando la gente parlava con energia ed enfasi, lei si limitava a guardarla in faccia e nei lineamenti. Non riusciva mai a capire come delle persone educate consentissero a cantare, ad aprire la bocca nel modo ridicolo, indispensabile per quell'esercizio vocale. Non passarono molti giorni che Mr. Casaubon, mattino, passò a fare una visita, al che egli venne invitato di nuovo per la settimana seguente a cenare e a fermarsi la notte. Cosicché Dorotea ebbe altre 3 occasioni di conversare con lui e si convinse che le sue prime impressioni erano state giuste. Egli era in tutto e per tutto come lo aveva immaginato a prima vista. Quasi tutto ciò che aveva detto sembrava un campione estratto da una miniera o l'iscrizione sulla porta di un museo che potesse fare accesso ai tesori di epoche passate. E quella sicurezza nella sua ricchezza intellettuale agiva in lei con tanta più profondità e efficacia, proprio perché adesso era ovvio che egli compiva queste visite per amor suo. Questo uomo colto accondiscendeva a pensare a una ragazza e si prendeva la briga di parlarle, non con assurdi complimenti, ma facendo appello all'intelligenza di lei e talvolta con correzioni istruttive. Che deliziosa compagnia! Mr. Casaubon sembrava addirittura inconsapevole dell'esistenza delle banalità e non si lasciava mai andare a quelle insulsaggini da uomini grossolani che sono accettabili come un pezzo di torta nuziale stantia messa in tavola quando sa di credenza. Parlava di ciò che gli interessava, oppure se ne stava zitto e chinava la testa con triste gentilezza. Per Dorotea questa era una franchezza adorabile e un'astensione religiosa da quella artificialità che sfinisce l'anima nello sforzo di fingere. Perché guardava la superiorità religiosa di Mr. Casaubon, superiore alla sua, con la stessa reverenza con cui considerava la sua intelligenza e il suo sapere. Egli assentiva alle espressioni dei devoti sentimenti di Dorotea e di solito con una citazione acconcia. Arrivò fino al punto di dire di avere attraversato qualche conflitto spirituale in gioventù. In breve, Dorotea si rese conto di poter contare sulla sua cordiale guida e simpatia. Su uno, soltanto uno dei suoi argomenti preferiti, rimase delusa. A Mr. Casaubon evidentemente non interessava costruire dei cottage, e si sviò a parlare dello spazio estremamente stretto in cui si poteva disporre nelle abitazioni degli antichi egizi, quasi volesse frenare un tenore di vita troppo elevato. Dopo la sua partenza, Dorotea, in preda a una certa agitazione, rifletté su questa sua indifferenza e la sua mente era assai allenata a trarre argomentazioni dalle condizioni variabili del clima, che modificavano i bisogni dell'uomo e dalla riconosciuta malvagità dei Despoti pagani. Non avrebbe dovuto insistere su questa argomentazione con Mr. Casaubon quando questi sarebbe tornato, ma riflettendoci ulteriormente si rese conto di essere sfacciata a richiamare la sua attenzione su un soggetto simile. Egli non avrebbe disapprovato che se ne occupasse nei momenti liberi, come altre donne si aspettano di occuparsi dei loro abiti e del ricamo. Egli non glielo avrebbe proibito quando Dorotea provò vergogna nel trovarsi immersa in queste fantasticherie. Ma lo zio era stato invitato a Lowick per trattenersi un paio di giorni. Era ragionevole supporre che Mr. Casaubon fosse incantato dalla compagnia di Mr. Brooke solo per la cosa in sé, con o senza documenti. Frattanto, quella piccola delusione le fece apprezzare ancora di più la disponibilità di Sir James Chatham a promuovere le migliorie desiderate. Venne molto più spesso di Mr. Casaubon e Dorotea smise di trovarlo indisponente, dato che mostrava in modo così completo di voler fare sul serio. Infatti aveva già esaminato con molta abilità pratica i preventivi di Lovegood e la sua docilità la incantava. Essa propose di costruire un paio di cottage e di trasferirvi 2 famiglie dalle loro vecchie capanne, che quindi si sarebbero potute abbattere in modo da poter costruire 2 nuovi cottage al loro posto. Sir James disse: "Esattamente", ed essa prese la parola con una tolleranza eccezionale. Certo, questi uomini che erano così sterili di idee spontanee avrebbero potuto essere assai utili alla società di cui facevano parte sotto una buona guida femminile, erano fortunati nella scelta delle cognate. È arduo dire se essa desse prova di un po' di cocciutaggine nel continuare a ignorare la possibilità che per sé fosse in ballo un altro tipo di scelta. Ma la sua vita, proprio ora, era tutta speranza e attività. Non solo pensava ai suoi progetti, ma prelevava dalla biblioteca dotti volumi e leggeva molte cose in fretta e furia per poter essere un po' meno ignorante quando parlava con Mr. Casabo. E frattanto era assillata da scrupolosi interrogativi. Non esaltava oltre misura questa attività di poco conto e non le contemplava, forse con quell'autocompiacimento che in ultima analisi era ignoranza e follia.